Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Buona giornata a voi, che ci piaccia o no, dobbiamo muoverci, il periodo lo impone. Basta poco, una pedalata, una rampetta di scale, 4 passi di corsa. Teniamoci occupati per non cadere in facili tentazioni. Che cosa stavate pensando? Io mi riferivo alla poltrona, che in questi giorni di festa sarà molto seducente e tenterà di tutto per tenerci avvinghiati a lei, ma noi non cederemo. E per renderci forti nel corpo e nello spirito, qua in studio con me è tornato a trovarci il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Che cercherà di convincerci a muoverci e ci suggerirà, in base al nostro profilo, un programma che ci aiuterà a stare bene e a mantenerci in forma. Professor Tirelli, in questo periodo, complice il successo di Mangia con me e i lauti pranzi e cenoni che ci attendono, tutti mi chiedono: Nico, come faccio a non ingrassare a Natale? L'altra volta incontravo un'amica lungo le scale, qua al Palazzo del Sole, e proprio dalla rampa: Nico, ma ingrasso a Natale? Ecco, e allora io per questa domanda mi sono preparato una risposta multipla. Primo, non associare le feste ai chili in più, perché questo genere di pensieri, professor Tirelli, come lei mi insegna, ci portano a sentirci sollevati dalle nostre responsabilità, ma spinti verso un destino che sembra ineluttabile. La PNL in questo ci dà una mano. Sì, infatti noi sappiamo che le parole e i pensieri hanno un loro potere, e quindi nel momento in cui le esplicitiamo abbiamo anche, mettiamo in atto in quello stesso istante una sorta di rinforzo, per cui se io penso è Natale e la mente collettiva usa dire che a Natale si può fare di tutto, allora io, facente parte di questa mente collettiva, mi adeguo e posso anche debordare, andare oltre quelli che sono i leciti eccessi, che però talvolta diventano, certo, degli eccessi eccessivi. Secondo consiglio dell'amico, per la mia amica che mi incontra lungo le scale: mangiare un po' di tutto senza esagerare, che non sediamoci a tavola con l'idea: beh, già che ingrasso mi tolgo la voglia. Sì, perché la cosa poi, tra l'altro, molto bella, se vogliamo, è anche consapevole, è sapere che il cibo ha un suo valore. Senza cadere, diciamo, in argomentazioni magari che non fanno parte di questo aspetto troppo profonde, però io do un valore al cibo, so che è una fonte di energia, che è anche un privilegio, e quindi io determino in quel momento, mentre mangio, la possibilità di assumerlo con consapevolezza, e questo necessariamente di conseguenza mi porta a limitarne nel giusto modo l'assunzione della quantità stessa. Andiamo al terzo consiglio, che in realtà è una postilla del secondo. Non dico io, non vi o ci limitiamo a mangiare, anche se trovare pronto in tavola è qualcosa di molto piacevole. Diamoci un po' da fare anche noi ai fornelli. E qui, se siete amici di Essere Benessere, avete già vinto, perché ci sono per voi tutte le ricette del nostro Stefano Polato, che ha preparato per noi delle ricette che siano belle, equilibrate, e soprattutto che, senza farci rinunciare al gusto, ci permette di mantenerci in linea. E il quarto consiglio, invece, ascoltate oggi i consigli del professor Tirelli, aiutateci a capire quale consiglio vi può aiutare. Professor Tirelli, che cosa ha bisogno di sapere dai nostri ascoltatori all'800 24 00 24? Naturalmente potete seguirci su Facebook e su Twitter. Ma mi serve sapere principalmente qual è la posta per cui i nostri ascoltatori scenderebbero in campo. Ci deve essere sempre una motivazione, e poi naturalmente mi aiuta a capire se questi nostri amici sono dei sedentari, degli sportivi, se sono in sovrappeso, se sono in normopeso, se sono in questo momento a dieta. E una cosa che suggerirei è, la domanda che farei è: quanto volete pesare? E quando volete che ciò accada? Perché è diverso dal dire voglio dimagrire. 800 24 00 24. Noi siamo pronti per ricevere le vostre domande, i vostri spunti, i vostri suggerimenti. E quindi non avete che da prendere il telefono e chiamarci. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42, 3 per 8, 48, 6 per 9, 20. E per chi è molto sensibile alle formule, ecco a voi, cari amiche, cari amici, la formula per uscire indenni dalle feste natalizie. La regola del 5, studiata appositamente dagli esperti di nutrizione della Nutrition Foundation, che, se applicata con attenzione, permette di passare indenni attraverso le festività e le loro tentazioni. In linea con noi abbiamo il professor Andrea Poli, direttore scientifico della Nutrition Foundation of Italy. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei. Professore, 5, tutto ruota intorno a questo numero. È vero, c'è una sorta di ritorno continuo e tutto nasce infatti da alcune considerazioni che avevamo fatto già un paio d'anni fa, che abbiamo riaggiornato, che dicono che nei principali pasti che potremmo definire macrocalorici, ma qualche volta ahimè diventano megacalorici del periodo natalizio, noi aggiungiamo al nostro apporto standard circa 5.000 calorie. E questo è l'eccesso che, se non facciamo nulla, tende a depositarsi su questo conto personale, questo conto corrente personale delle nostre calorie, che non vedremo però vedere positivizzare troppo, perché altrimenti certo, poi lo rivediamo sui fianchi. E per neutralizzare queste 5.000 calorie, tenendo conto che in genere tendo a essere un po' di più in chi pesa un po' di più e un po' di meno in chi pesa un po' di meno, abbiamo fatto qualche conteggio rapportato al peso e abbiamo scoperto molto banalmente che se nel periodo che va da Natale all'Epifania noi aumentiamo di circa 5 calorie in più al giorno per il chilo di peso il nostro dispendio energetico, noi riusciamo a neutralizzare perfettamente questo squilibrio energetico, quindi ci ritroviamo alla fine del periodo natalizio esattamente nelle condizioni in cui eravamo all'inizio. Quindi 5 calorie in più al giorno per chilo di peso, che vuol dire che per una donna che pesa 60 kg sono circa 300 calorie in più da bruciare ogni giorno, e per un uomo che pesa, diciamo, 70 kg sono 350 calorie in più da spendere nella giornata. Professor Tirelli, si fa fatica? No, per esempio una camminata a passo sostenuto per 20 minuti, 25-30 minuti massimo al giorno già porta a questo dispendio calorico, quindi direi che è fattibilissimo, proprio come sta dicendo il nostro esperto. Professore, tra l'altro, a proposito di numeri, so che lei ha degli altri numeri che sono certa ci farà piacere ascoltare, perché finalmente ci dicono che siamo stati bravi. Sì, è vero, possiamo, che ci comportiamo bene. Ci comportiamo bene come paese. Noi abbiamo cercato proprio qualche settimana fa, abbiamo avuto i primi dati, in realtà lo studio sta ancora continuando, di rilevare con molta attenzione i consumi di zucchero nella popolazione italiana adulta, perché molto spesso si ragiona di queste cose ma senza avere dei dati concreti misurati con delle metodiche riproducibili. Abbiamo scoperto, con una metodologia molto rigorosa, intervistando un grande numero di persone raccolte secondo un campionamento statistico accurato, che il consumo medio di zucchero, ma mettendo insieme veramente tutto, quindi sommando lo zucchero del latte, lo zucchero dei succhi, la frutta che non possiamo naturalmente e non vogliamo comprimere, lo zucchero che aggiungiamo al caffè, tutti i dolci, arriviamo in media a 67 grammi al giorno per gli uomini e a 61 per le donne. È un dato che di per sé può sembrare poco interpretabile, ma recentemente la Società Italiana di Nutrizione Umana ha diffuso le linee guida, i LARN, i livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti, e il valore al di sotto del quale dovremmo stare è di circa 75 grammi per una persona di peso medio, quindi in media noi siamo già al di sotto di questo valore, quindi il consumo degli zuccheri probabilmente non è il principale dei problemi della nostra popolazione, non è forse il motivo per cui aumentiamo di peso, è molto più facile pensare che ci muoviamo troppo poco e quindi è questo che fa salire poi il saldo del nostro conto corrente. Quindi tutto sommato, se a Natale ci aggiungiamo una fetta di panettone o di pandoro o qualche cosa, il problema è più nel complesso delle calorie piuttosto che nello zucchero. Lì abbiamo un piccolo margine di sicurezza che possiamo saggiamente amministrare nel periodo natalizio. Quindi con gli zuccheri andiamo bene, con il movimento vedrà, professore, andremo benissimo. Grazie al professor Andrea Poli, buon Natale, professore. Grazie anche a tutti buon voi. Buon Natale, arrivederci. A presto, arrivederci. Laura ci chiama dalla provincia di Modena all'800 24 00 24. Laura, buongiorno, auguri. Buongiorno, auguri a voi. Volevo semplicemente dire che un pochino dipende anche da chi cucina. Non lo so, per esempio noi facciamo i tortellini in brodo, io preparo il brodo il giorno prima, lo metto in frigo e così lo sgrasso totalmente. E poi bisogna mangiare di tutto quando sei in tavola, assolutamente, no, intanto non bisogna mangiarne quantità industriali. Certo. E poi scegliere, per esempio, in un antipasto misto, scegliere, non so, la brisaola invece che il salame. Ma Laura, lei poi farà un pochino, cercherà di smaltire le 300 calorie in più al giorno, quelli famosi 5 calorie per chilo? Direi di sì, ma con la ciclette, perché da me è tutto bianco. Abito nella bassa modenese e tutti i campi sono gelati. Professor Tirelli, Laura ci porta sulla ciclette. Ciclette e tapirulan possono essere delle alternative valide? Sì, senz'altro. Infatti poi magari avremo anche modo successivamente di parlare del fatto che a seconda di quello che si ha a disposizione in quel momento, o una palestra piuttosto che casa propria, piuttosto che una camera di un hotel perché si è in vacanza, noi possiamo utilizzare vari strumenti semplici o più complessi. In questo caso la ciclette, il tapirulan, l'ellittica, tutto ciò che comprende un dispendio di lavoro aerobico è fantastico, è ottimo, perché è quello che ci serve proprio per smaltire al meglio quelle calorie in eccesso che abbiamo giustamente anche acquisito in quei momenti di festa. Camminando, camminando, entro spine e flores, conquistando temore, sta frente a se mirar. Camminando, camminando, sopra cielo e mare. E infatti, il professor Tirelli si dice facile come camminare, ma c'è cammino e cammino. Allora, già che vogliamo seguire alla lettera la regola del 5 che ci è stata proposta dal professor Poli, quindi smaltire quelle 5 calorie per chilo, almeno in queste vacanze di Natale, cerchiamo di capire qual è il cammino adatto per la nostra situazione. Innanzitutto capire che cosa vuol dire camminare, perché la consapevolezza ci porta ad avere maggiori motivazioni, sempre. Se io faccio qualcosa perché mi dicono di farlo senza capirne e comprenderne il significato, è un pochino più complesso e difficile poi praticarlo. Allora, se posso avere solo 2 minuti, io direi di una cosa. Il cammino è una forma di meditazione dinamica. Questo lo insegnava un monaco vietnamita, che è tuttora in Francia, al Plum Village. Fa dei corsi proprio di insegnamento di meditazione nel cammino, si chiama Thich Nhat Hanh, è stato un monaco molto coraggioso perché nella guerra tra americani e vietnamiti lui si è schierato da parte verso entrambi gli schieramenti, quindi aiutava sia i prigionieri di guerra americani che quelli vietnamiti, quindi è stato esiliato ad un certo punto proprio perché tacciato, certo, di tradimento. Ma lui ha avuto poi le sue ragioni, perché vedeva nella camminare, nella camminata, nella deambulazione, una forma istintiva, naturale di meditazione. Perché questo dal punto di vista scientifico avviene? Se io ponessi un sensore all'apice della mia testa, vedrei che ad ogni cammino questo sensore si alza e poi si abbassa, si alza e si abbassa. Cioè camminare non è solo un movimento orizzontale, è anche un movimento oscillatorio verticale. Quindi io a ogni passo vado un po' più in alto, all'altro passo scendo, poi quindi già in quel momento attuo in me una sorta di dondolio, di lullaby, una sorta di quasi ninna nanna del mio organismo, che mi porta ad attenuare quella vitalità di onde cerebrali, in particolare mi aiuta ad attivare le onde cerebrali alfa, quelle della meditazione, della creatività, della contemplazione. Allora molto spesso le persone dicono, gli atleti stessi, sai che camminando mi è venuta un'idea fantastica, camminando ho trovato la risposta. E questo da un punto di vista mentale. Poi da un punto di vista fisico, la camminata sicuramente è un dispendio aerobico. Più io cammino, quindi assumo ossigeno, più lo uso per bruciare quelle calorie in eccesso che eventualmente il mio organismo presenta. La camminata però deve essere sostenuta, non una camminata lenta, può essere una camminata con una frequenza accelerata, avendo magari a disposizione un misuratore di velocità, direi che 4,5 km all'ora per esempio è una camminata già molto buona. Poi la posso alternare a volte anche a dei momenti di lieve pausa. la posso ottimizzare a livello anche di salite, se potessi avere a disposizione un paesaggio, un ambiente che mi permette di poter esercitare lavoro anche per esempio sui muscoli glutei, perché per andare verso l'alto io devo utilizzare sia i muscoli del quadricipite, dei flessori, ma anche i muscoli proprio glutei che spesso non possono essere esercitati nella zona di pianura. La deambulazione e la camminata quindi è fondamentale, è un tipo di allenamento che fortunatamente fa parte della nostra natura. Io anche volendo non potrei stare fermo, perché ad un certo punto, dopo un po' di tempo, di ore, subentrerebbero dei crampi, dei formicolii che mi obbligano a muovermi. E questo è un elemento importante, perché mi dice che la natura ci dice sempre che la vita è movimento. Il medico mi ha controllato, mi ha fatto tutte le analisi e mi ha tranquillizzato. Mi ha detto, dice, lo vede, l'elettroencefalogramma è piatto. Ah, vabbè, meno male, almeno questo. Però, a quanto pare, nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non è che sono dottore, non lo so. Che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da come quando la nascita. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? Buone notizie per chi ama trascorrere i giorni di festa, si sente in pieno relax quando si stravacca sul divano o sulla poltrona, ma a condizione che pensi, perché anche pensare fa bruciare. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e sugli ospiti, a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, camminare è naturale, il professor Tirelli naturalmente spinge per il cammino, spinge il cammino anche come pratica che ci aiuta, ci porta verso la meditazione per accendere idee e pensieri. E a proposito, quando noi usiamo la testa, bruciamo calorie. Sì, forse non riusciamo a ridurre la pancetta, ma è indubbio che l'attività mentale bruci calorie, anche da seduti. Ma pensiamo ad esempio ai piloti di Formula 1, che non fanno alcun tipo di movimento, eppure la sola concentrazione fa sì che durante la gara arrivano a perdere 2 o 3 kg di liquidi corporei. Oppure chiunque di noi, quando è sottoposto ad un'intensa attività mentale per diversi giorni, vede scendere l'ago della bilancia. Questo perché si pensi che il cervello, che pesa circa 1,3 kg ed è quindi il peso mediamente di un 1/70 del corpo, arriva a bruciare il 20% dell'energia complessiva, e ciò si verifica principalmente quando siamo concentrati, quando ragioniamo o quando memorizziamo. E a questo proposito, Nicoletta, se lei è d'accordo, io vorrei proporre un esercizio di concentrazione al pubblico. Volentieri, volentieri, così iniziamo il nostro programma di allenamento. Sì, e bruciamo anche qualche caloria. Ci portiamo avanti. Ci portiamo avanti. Ecco, io propongo di fare un esercizio che richiede di costruire una frase breve, sì, semplice, ma che ha un vincolo. Ciascuna parola deve iniziare con la lettera A, con le prime 5 lettere dell'alfabeto, quindi bisogna fare una parola con la lettera A, una parola con la lettera B, una parola con la lettera C, una parola con la lettera D e una parola con la lettera E. Tutte queste 5 parole devono essere composte in modo tale che la frase abbia un senso compiuto. Vedo già Filippo Reggi in regia che sta facendo mumble, sta già cercando di dare una risposta. 800 24 00 24, se volete accettare la sfida del professor Iannoccari. Professore, sono permessi anche articoli, preposizioni o no? Se vogliamo bruciare qualche caloria in più, proporrei di no. No, A, B, C, D, E. Professor Tirelli, questa è una sfida intrigante. Allora, la abbiniamo proprio a proposito di benessere, alla Guida al Benessere, il libro che ho scritto con Alberto Pellai e Paola Reverso. 800 24 00 24. Direi che questa la abbiniamo alle telefonate. Per gli amici che ci seguono su Facebook, penseremo la prossima volta, forse con un altro giochino. Grazie, professor Iannoccari. Quindi lei tornerà tra poco. Professore? Sì, eccomi qua. Stia concentrato, perché se no i neuroni, Allora, sì, professore, sì, lei torna tra poco e intanto voi continuate, anzi iniziate a chiamarci, ma mi raccomando, oggi alleneremo la nostra mente con l'obiettivo di così sfruttare la concentrazione, che ci aiuta anche a mantenerci in forma e a far funzionare bene il nostro cervello, ma oggi vogliamo darvi i suggerimenti per praticare un po' di attività fisica, iniziare se ancora non l'avete fatto, e le vacanze di Natale potrebbero essere proprio una buona occasione. Ricordate la regola del 5, noi dobbiamo organizzarci, oggi lo faremo con l'aiuto del professor Tirelli, per trovare la formula che ci permette di applicare la formula, e cioè bruciare 5 calorie per chilo di peso corporeo. Bisogna muoverci, può essere anche piacevole, professor Tirelli, misurarsi con... No, un'abitudine quotidiana nuova da inserire, la passeggiata prima, o meglio farla prima o dopo mangiato, ad esempio, perché c'era stato era una notizia che riguardava l'allenamento. Aiuta, brucia di più allenarsi prima o dopo i pasti? Direi che dopo i pasti possiamo unire due effetti positivi. L'uno è quello di consumare le calorie, il secondo è quello di attivare un meridiano energetico molto importante, che è proprio il meridiano dello stomaco. C'è un modo di dire, ma che arriva dall'antica medicina cinese, che dice che dopo ogni pasto bisognerebbe fare 100 passi. Non a caso questo, in quanto nell'articolazione della caviglia, quindi tra la gamba e il piede, c'è un punto energetico importante che si chiama stomaco 41. Mm. È un punto importantissimo perché, se attivato, contribuisce ad una miglior digestione. Quindi se io penso che dopo aver pranzato io ho questa capacità di attivare fisicità e aspetto energetico, la cosa si completa. Vede che tutto torna poi. È bellissimo. È fantastico. Sì. Paolo da Como, Saverio da Milano, buongiorno a tutte e due. Paolo. Buongiorno, buongiorno. Mi fa molto piacere di sentirla ogni tanto. Grazie Paolo, mi chiami? Ascolti, sì. Io ho una algostrofia al ginocchio sinistro, no? E il dottore mi ha detto di non muovermi perché altrimenti si accentua di più. Però io sto perdendo parecchio tono muscolare e ho tanto tempo libero a disposizione, perché adesso lavoriamo poco, lavoro all'esterno ed inverno. Sì. Io avrei voglia di camminare, però mi dicono di farlo il meno possibile. Per questo dolore al ginocchio, detto esatto, in parole semplici, no? Ho capito bene, sì, Paolo? Sì, sì. Sono un po' sovrappeso, vorrei togliermi il peso. Ma un po' sovrappeso, lei che cosa dice? Quando noi diciamo un po' sovrappeso, lei si fa degli sconti? No, beh, sono parecchio sovrappeso. Non sono obeso, ma sono parecchio sovrappeso. Perché? Sono alto 1,80 m e peso 97 kg. Professor Tirelli, Paolo è molto simpatico perché poi ha detto no, sono un po'... Allora, perché in effetti i chili in più pesano sulle nostre ginocchia, questo l'abbiamo questo è sempre chiaro, detto. Lo sappiamo, sì. Poi in realtà non voglio entrare nel merito di quello che il medico ha suggerito, che sicuramente sarà una cosa corretta e giusta, però ricollegandomi a questo intervento posso dire in genere una cosa, che il giusto movimento, quindi intendo dire la camminata, per disturbi funzionali del ginocchio di medio o lieve entità è molto utile, in quanto laddove non vi siano delle veramente importanti controindicazioni post chirurgiche del momento, post traumatiche importanti da brevi giorni, il movimento come la camminata è utile in quanto rigenera cellule e porta anche a livello energetico a muovere quel tipo appunto di energia che, laddove c'è un'infiammazione, si chiama stasi energetica. La stasi, come ci dicevamo prima, poc'anzi nell'intervento precedente, non è prevista a lungo termine nella vita. Una stasi può essere momentanea, ma se prolungata per troppo tempo porta a disturbi. Allora in questo caso direi che è positivo. E quindi camminare ad esempio con le racchette? Fantastico, il Nordic Walking per esempio è una metodologia... Vede che so! Sa molto! No, il Nordic Walking è bellissimo perché lo vedo fare spesso anche dove abito io, appena fuori Milano, dove ci sono delle campagne che permettono di usare anche queste bacchette che... ci portano a utilizzare e a consumare calorie grazie anche al movimento dei deltoidi, dei bicipiti, dei dorsali, quindi una sorta di sci di fondo più leggero, ma che è molto utile perché oltre a far intervenire i muscoli degli arti inferiori, fa intervenire i muscoli del tronco, gli addominali, i dorsali e anche i muscoli degli arti superiori. Andiamo a Saverio che ci chiama da Milano all'800 24 00 24, vediamo se riusciamo a dare qualche indicazione a Saverio. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Però non mi dia del lei, altrimenti già mi mette in difficoltà. Va bene, allora Saverio, dimmi tutto. Stavo dicendo, allora, premesso che io avrei bisogno di fare qualche dieta e che e comunque mi ci mettono pure in dieta. Per la prima volta quest'estate ho fatto una dieta, quella proprio sacrosanta, fatta con tutti i crismi, e non è che oltre non è che abbia perso granché proprio. È capitato adesso, da poco, per un'infezione alle vie urinarie lì, oltre la cura, mi hanno detto che avrei dovuto mangiare in bianco, siccome odio proprio mangiare in bianco, quindi ho mangiato tutti i praticamente, ho fatto lì una di 10 giorni, sì. Ho perso di più che in 4 mesi di quest'estate. 10 giorni riducendo, sì, lei, allora, riducendo un po' quello che ha mangiato. Saverio non ha detto una cosa secondo me interessante: mi mettono anche a dieta. Forse è una delle ragioni per cui le diete di Saverio falliscono, perché noi lo sappiamo che il cambiamento dello stile alimentare deve essere metabolizzato, per usare una parola proprio da noi, dobbiamo desiderarlo. Ma Saverio ci chiede: ma allora, col freddo le diete funzionano perché al freddo si bruciano di più? Professore. Beh, innanzitutto bisogna dire che il freddo sicuramente ci obbliga a contrarre maggiormente i nostri muscoli. Volenti o nolenti, quando usciamo per strada, camminiamo e quant'altro, noi siamo molto più chiusi, contratti con le spalle, anche senza pensarci. E quindi quella contrazione non avviene gratuitamente, avviene grazie ad un dispendio energetico. Questa energia è una sorta di allenamento che, sviluppato per parecchie ore durante la giornata, perché se io esco, poi devo andare al lavoro, poi torno, poi devo andare in palestra o in qualsiasi altro posto, comunque mi irrigidisco. Quindi la contrazione da freddo è sicuramente un overtraining positivo in questo caso. Allora potremmo associarla a un discorso di maggiore utilità anche durante l'assunzione di diete. Poi una cosa di cui parlavo prima è il fatto che, come giustamente tu dicevi, Nicoletta, un conto è imporre, tra virgolette, sempre una dieta, un conto è decidere io quanto voglio pesare, che è diverso dal dire quanto voglio dimagrire. Se dico e penso voglio dimagrire, sto già dando come presupposto il fatto che io sono grasso o che io sono in sovrappeso, che io sono obeso. Ma se io determino quanto voglio pesare, allora io sto dicendo sono in una situazione tot, X, ma io voglio raggiungere entro quel mese quei chili che mi sono, che io ho determinato. Sono due cose diverse, sottili, ma la mente, come sappiamo, è l'autista del nostro corpo e quindi della nostra macchina. Se l'autista dà delle informazioni chiare, la macchina andrà verso i giusti obiettivi, certo. Quindi quanto volete pesare alla fine delle vacanze di Natale? 800 24 00 24. Le piace così, professore? Giustissimo. Dai, allora, intanto è ritornato il professor Iannoccari. Professore, buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo allenati, sono arrivate molte chiamate all'800 24 00 24, sono arrivati anche messaggi 349-238-6666 che in questa fase, in questo gioco, non partecipano al gioco, ma intanto si allenano. Abbiamo in linea con noi Antonella da Brescia e Daniel da Padova, che sono stati prontissimi, sono stati i primi due ascoltatori che hanno raggiunto il nostro numero verde suggerendo la loro frase. Diamo naturalmente la precedenza ad Antonella da Brescia. Antonella, voilà. Buongiorno, intanto volevo farvi complimenti per la trasmissione che io seguo quasi regolarmente quando posso. Grazie Antonella. Ecco, ho scritto questa frase perché ho associato quello che ha detto il dottore. Andai beatamente correndo dicendo espressioni felici. Inizialmente avevo pensato di farlo con delle preposizioni, però poi non si poteva, non si poteva. E molti di voi hanno cambiato l'ordine delle prime cinque lettere, non si poteva. Quindi Antonella propone: andai beatamente correndo dicendo espressioni felici. Professor Iannocca, li ha registrato? È bellissima. Allora aspettiamo quella di Daniel da Padova, perché il professor Iannocca, lui è felice, l'importante è che noi ci esercitiamo. Poi, allora Daniel, vediamo se ha fatto meglio. Daniel, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Pensando al cenone di Natale mi è venuta in mente questa frase: abbiamo banchettato come due elefanti. Io ho usato solo le prime cinque, però. Allora, professor Iannoccari, Antonella o Daniel? Sono bellissime tutte e due. Filippo Aureggi tifa per Daniel. Lei, professor Tirelli? No, direi che è bellissima quest'ultima. Anche la prima era stupenda. Quest'ultima, diciamo, che ci dà quel tocco di comicità e ilarità che serve sempre. Allora, professor Iannoccari? Ed è a tema col Natale, con quello che è il tema della puntata. E quindi? Diamo lo scettro a Daniel e facciamo un grandissimo complimento ad Antonella, perché è stata bravissima davvero. Brava Antonella. Daniel si porta a casa Guida al Benessere, anzi non che se la porta a casa, gliela mandiamo a casa noi dalla libreria di Essere Benessere. Daniel, bravissimo. Professor Iannoccari. Bene, l'esercizio mi sembra che sia stato molto... abbiamo molto seguito, e io proporrei, per chi non ha il tempo di farlo adesso perché magari è impegnato col lavoro, con altre faccende, di tenere a mente questo esercizio per farlo poi durante le feste. E lo così. Possiamo sì, si allena anche la memoria. Si allena anche l'abilità di concentrazione, e si può anche rendere sempre più, diciamo, più impegnativo, per cui consumare sempre più calorie. Come? Semplicemente aggiungendo altre lettere, per cui facendo delle frasi un po' più lunghe, oppure addirittura vincolando la lettera, per esempio la lettera B, con una parola che deve iniziare per ba. Quindi si mettono dei vincoli. Quindi man mano che diventa più abile la persona a fare l'esercizio, può crearsi degli impegni in più, e in questo modo si sviluppa e si allena di più. Professor Tirelli? Sì, volevo approfittare innanzitutto, salutando il professor Iannoccheri, per ricollegarmi a quello che diceva poc'anzi rispetto per esempio ai piloti. Io ho avuto occasione di allenare dei piloti di alto livello e devo dire che giustamente, come diceva il professore, gli stessi si allenano molto a livello mentale, tanto quanto anche la parte fisica, proprio perché loro sono sottoposti ad accelerazioni, a forze centrifughe, a situazioni di stress atletico che necessitano durante la settimana di allenamenti importantissimi pari a quelli di un atleta che corre, che salta, che esercita veramente il massimo della propria fisicità. E quindi mi trovo molto d'accordo su quello che diceva poc'anzi il professore. Una comunicazione di servizio a cui tengo in modo particolare. Un ascoltatore mi sta scrivendo al 349-238-6666 che non gli è arrivato il libro. Allora, io pregherei le persone a cui noi abbiamo promesso il libro, che non l'hanno ricevuto, naturalmente, di scriverci una mail a esserebenessere@radio24.it. Questo tengo a sottolinearlo, perché le cose che diciamo le facciamo. Stefano, buongiorno, ciao. Che cosa ci hai preparato oggi? Innanzitutto stavo pensando ad una cosa che sarebbe molto carino, vista la presenza del professor Tirelli, inventare qualche movimento utile da fare anche in cucina, quindi inventare una sorta di training in cucina. Ottima idea, diciamo che accetto volentieri questo tuo suggerimento. Grazie. Allora, in che cucina la si fa? Qua a Radio 24 cucine non ne abbiamo, ma io metto a disposizione la mia, un cane però che tende ad assaggiare quello che si prepara. Se siete pronti, Laura viene a filmarci e facciamo tutto con il nuovo anno. Stefano, allora... Ok, praticamente per quanto riguarda la cucina del nostro Natale, volevo soffermarmi soprattutto su uno dei capisaldi della tavola natalizia: il panettone e il pandoro. A questi alimenti possiamo abbinare in maniera utile e sana della frutta, anziché utilizzare sempre il classico tabaglione o le solite creme ricche di grassi. Beh, che però apporta... sono buonissime. Sì, ok. Beh, ok, ci siamo. proviamo delle alternative. Sì. Giochiamo in questo modo. Faccio un esempio. Tagliamo il panettone a dadini e facciamo un'insalatina con degli agrumi e della verdura. In questo caso ho deciso di mettere delle arance, dei mandarini e un finocchio. E in questa maniera riusciamo ad assorbire meglio la vitamina E delle nocciole, delle noci che spesso sono contenute nel panettone, e le fibre del finocchio mi aiutano ad assorbire in modo migliore, o meglio, a rallentare l'assorbimento certo, degli zuccheri e dei grassi del panettone. Utilissimo anche sempre per quanto riguarda l'assorbimento dei grassi del panettone è sempre la frutta ricca di fibra, mela, pera, magari lasciamo la buccia. Scegliamo quindi frutti biologici e teniamo la buccia nella pera, nella mela. O un altro ingrediente utilissimo in questo, che sicuramente troveremo nelle ceste natalizie, è l'ananas. Quindi abbiniamo l'ananas al panettone e al pandoro. L'abbinamento premia. Sì, sì. Allora, Stefano naturalmente ci preparerà anche qualche suggerimento, da qualche ricettina sfiziosa per il nostro Natale, che metteremo sulla pagina di Mangia con me, quindi ci risentiamo tra poco. Grazie Stefano. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie, grazie. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno, che nella sua prima fase, essendo molto rapido e anche, ahimè, molto leggero, quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Entriamo nelle braccia di Morfeo? Sì, Raniero. Centriamo? Ecco qua, un piacevole modo di tenere sotto controllo il peso e non solo. In linea con noi abbiamo il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Auguroni. Buongiorno. Volete dimagrire? Dormite. Possiamo dire così? Questa è una cosa che piace sia ai sedentari che agli sportivi. Si dorme e via. Sicuramente possiamo dirlo, lo possiamo dire anche perché le modelle, ad esempio, sanno benissimo questa cosa. Se noi dormiamo molto bene, sia in termini quantitativi che qualitativi, viene liberato quell'ormone che si chiama leptina e che ci dà lo stop alla fame, quindi abbiamo meno appetito, mangiamo di meno. Viceversa, se non dormiamo bene, purtroppo viene rilasciata la grelina e questo ci spinge, ahimè, a mangiare di più. Quindi sicuramente è una cosa vera che dormire bene fa ingrassare di meno e comunque, insomma, sicuramente diminuisce lo stimolo della fame. È valido anche il pisolino pomeridiano, mi scrive un ascoltatore? Sicuramente il sonnellino. Basta chiudere problema. Gli occhi, eh? Solito problema, sonnellino deve essere molto molto breve, però sonnellino di 20-30 minuti, non di più, perché altrimenti il nostro cervello va in una situazione proprio diciamo di torpore tale che poi dopo diventa problematico risvegliarsi ed essere efficienti. Professore, quindi dormite per mantenervi in forma, e non solo, perché come abbiamo avuto modo di raccontare tante volte col professor Ferini Strambi, anzi ce l'ha detto lui, il sonno aiuta nella nostra salute e il nostro benessere con diverse funzioni, su cui torneremo. Professore, grazie, buona giornata, grazie, tantissimi a voi, auguri. Buona giornata. Professor Tirelli, noi abbiamo una pace di 2 minuti per noi. Oh, che goduria! Dove possiamo raccontarci allora in pillole i suoi consigli per... Vogliamo parlare anche degli sportivi, perché noi spingiamo sempre sui sedentari, ma ci sono sportivi che all'idea delle vacanze di Natale soffrono, perché si trovano costretti un po' a modificare i loro tempi di allenamento. Ci sono le feste, gli incontri. Parliamo anche degli sportivi che dovranno in qualche modo apportare dei cambiamenti ai loro allenamenti. Sì, dovranno mediare tra la necessità di stare con gradevolezza insieme ai parenti, agli amici. Allora, la prima cosa direi che se hanno a disposizione una palestra, gli strumenti, gli attrezzi da prediligere saranno quelli di carattere aerobico, quindi dal tapis roulant all'ellittica, la ciclette, quelli detti poc'anzi. In più ci saranno sempre i gruppi muscolari degli addominali, degli arti inferiori, che sono i principali, a seconda poi chiaramente dell'attività fisica che l'atleta in questo caso dovrà fare, potrebbero essere anche gli arti superiori. per chi invece non avrà a disposizione una palestra o una piscina, perché magari è lontano dal suo luogo, è chiusa la piscina o la palestra, i famosi elastici sono sempre importantissimi da portare con sé per poter fare degli esercizi senza sovraccarico, senza quindi stimolare infiammazione a livello tendineo. Ma io direi che dobbiamo prediligere due cose: lavoro aerobico, camminare se non abbiamo la palestra, correre se ne abbiamo voglia perché anche se c'è freddo, e poter quindi sviluppare sempre quei muscoli principali utili per la stabilizzazione, il core si chiama, del nostro equilibrio, gli addominali in particolare. Aggiungerei questo agli ascoltatori uomini: aiutate le vostre compagne a fare i lavori domestici e smaltite calorie, e dopodiché la portate a ballare, quindi anche il ballo unisce la coppia e rende più snelli. Grazie al professor Tirelli. Grazie a voi e auguri di cuore. A Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, noi come sempre ci sentiamo domani, se volete potete scaricarci, se no domani di nuovo qui.